La cura del mondo. Dio, la conservazione nell'essere e la provvidenza. A questa trasmissione del male nel corso della storia risponde la continua azione di Dio che non solo crea, ma anche mantiene nell'essere e si prende cura di ciò che ha creato. Quando si costruisce qualcosa, le si dà forma e figura secondo il progetto iniziale e poi ogni tanto bisogna verificare che tutto continui a corrispondere al progetto. Ma nel caso della creazione è ben diverso, perché Dio non parte da una materia iniziale, ma dona l'esistenza e questo permette di comprendere cosa sia la conservazione. Come non c'era l'esistenza prima della creazione, così questa non ci sarebbe più se Dio non continuasse a volerla. Dice il Catechismo. Dopo averla creata, Dio non abbandona a se stessa la sua creatura. Non le dona soltanto di essere e di esistere, la conserva in ogni istante nell'essere, le dà la facoltà di agire e la conduce al suo termine. Riconoscere questa completa dipendenza in rapporto al Creatore è fonte di sapienza e di libertà, di gioia, di fiducia. Numero 301. Nel caso dell'oggetto materiale prodotto dall'uomo, l'esistenza si appoggia sulla materia e per questo bisogna solo verificare ogni tanto. Ma il nostro non è un Dio che fa manutenzione, è un Dio creatore. Egli ci ha voluto e ci vuole sempre, per questo resistiamo. Non c'è situazione o condizione umana dove egli non possa farsi presente. Ciò è ben espresso da uno dei racconti dei Chassidim, raccolti da Martin Buber. Quando un famoso rabbi, Isacco Meir di Ger, 1866, era bimbo, gli dissero che gli avrebbero dato un fiorino se fosse stato capace di rispondere alla domanda «Dove abita Dio?». Ed egli rispose dicendo che era pronto a dare due fiorini a colui che lo interrogava, se questi fosse stato capace di dire «Dove Dio non abita?». La creazione dà origine al tempo, ma non è nel tempo, in modo tale che essa non cessa. L'atto divino non decade, non si affievolisce, ma è costantemente presente ed efficace. Ha detto Giovanni Paolo II, il mondo creato da Dio è costantemente mantenuto dal Creatore nell'esistenza. Questo mantenere è, in un certo senso, un continuo creare. Conservatio est continua creatio, 29 gennaio 1986. La dipendenza da Dio della creatura è dunque assoluta e costante. Bastino due citazioni della Scrittura. Se egli pensasse solo a se stesso e a sé ritraesse il suo spirito e il suo soffio, ogni carne morirebbe all'istante e l'uomo ritornerebbe in polvere. Giobbe 34, 14, 15. Tu, infatti, ami tutte le cose che esistono e non provi disgusto per nessuna delle cose che hai creato. Se avessi odiato qualcosa, non l'avresti neppure formata. Come potrebbe sussistere una cosa se tu non l'avessi voluta? Potrebbe conservarsi ciò che da te non fu chiamato all'esistenza? Tu sei indulgente con tutte le cose, perché sono tue, Signore amante della vita. Sapienza 11, 24, 26. La tradizione paolina attribuisce questo compito direttamente a Cristo, dicendo che egli sostiene tutto con la potenza della sua parola. Ebrei 1:3. Alcuni padri hanno identificato nel settimo giorno il momento di questa attività di conservazione, mostrando come essa sia legata all'efficacia della contemplazione. Lo sguardo di Dio sostiene nell'essere. Così, anche a livello antropologico, la contemplazione non solo non nega l'azione, ma dà luogo ad una particolare efficacia. Le cose non esistono necessariamente. Tommaso spiega che la dipendenza dell'universo da Dio non è solo nel suo divenire, in fieri, ma anche nel suo sussistere, in esse. La conservazione non è dunque un atto nuovo di Dio, ma la continuazione dell'unico atto creatore. Solo intellettualmente possiamo distinguere i due momenti. Ciò che è stato creato dal nulla non può mai diventare autosufficiente, ma esiste sempre nella relazione con Dio. Per questo anche crescere nella vita cristiana non significa diventare capaci di fare cose sempre più difficili, ma implica necessariamente la presa di coscienza del proprio nulla e il progresso dell'umiltà. Riguardo alla conservazione, non si può parlare di una nuova creazione, perché la creazione e la conservazione sono un unico atto di Dio situato fuori dal tempo. Dio inoltre non solo conserva, ma spinge verso il fine per il quale le cose sono state create. In altre parole, l'agire delle realtà create dipende dal loro essere e quindi da Dio. L'ontologia cristiana è dunque dinamica, nel senso che lo stesso principio che governa l'essere governa anche l'azione. Ciò non significa che non ci sia libertà o che Dio sia autore del male, perché bisogna distinguere la causa prima dalle cause seconde. Questa azione di Dio per portare la creazione al suo fine si manifesta nella provvidenza. Così la descrive il Catechismo. La creazione ha la sua propria bontà e perfezione, ma non è uscita dalle mani del Creatore interamente compiuta. È creata in stato di via, in statu vie, verso una perfezione ultima alla quale Dio l'ha destinata, ma che ancora deve essere raggiunta. Chiamiamo divina provvidenza le disposizioni per mezzo delle quali Dio conduce la creazione verso questa perfezione, numero 302. Provvidenza sono dunque le disposizioni per mezzo delle quali Dio conduce la creazione verso la perfezione. Con parole di Giovanni Paolo II, nel mistero della provvidenza si prolunga in modo ininterrotto e irreversibile il giudizio contenuto nel libro della Genesi. Dio vide che era cosa buona, che era cosa molto buona. Genesi 1:24-31. Essa costituisce, cioè, la fondamentale e incrollabile affermazione dell'opera della creazione. 14 maggio 1986. Tommaso afferma che la nozione di provvidenza emerge dall'unità di atto creativo e conservativo e dal fatto che il fine, cioè il senso e il compimento supremo della creazione, si trovano solo in Dio. La provvidenza non è estrinseca, non si impone alle creature, ma le fonda ontologicamente. Il dono fonda l'uomo, lo fa essere se stesso. Il nostro non è un Dio tappabuchi che interviene da fuori quando le cose vanno troppo male. Si è visto che il Logos è presente nel creato senza confondersi con esso. Si tratta del senso stesso del mondo che sappiamo essere il Figlio. Per noi è importante rispondere alla domanda di cosa sarà di me, non solo dell'universo. Coltiviamo a volte il sospetto che Dio si interessi solo dell'insieme, ma non di noi in concreto. Già nell'Antico Testamento si percepiva chiaramente che Dio si preoccupa dell'individuo. È il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. Seguendolo si può stare sereni e tranquilli come un bimbo in braccio a sua madre. Salmo 130:2. La concezione pagana del fato e del destino parte da una visione statica incentrata sulla fissità inesorabile delle stelle, che non riesce assolutamente a prendere sul serio la persona, considerata solo uno dei tanti pezzi tutti uguali. Dio invece si occupa di ogni persona che è pensata dall'eternità per il suo cuore. In Dio c'è il senso e il fine di ogni creatura. Se fin dall'Antico Testamento viene continuamente affermata la provvidenza divina, Salmo 90, nel Nuovo è Cristo stesso a spiegarla. In Matteo 6:31-33 e Luca 12:29-31 Gesù dice di non affannarsi come i pagani per la preoccupazione di cosa mangiare e bere, perché il Padre Celeste si occupa di noi. In Matteo 10:29-31 Gesù ricorre all'immagine poeticissima dei due passeri. Così in Matteo 6:26-30 e Luca 12:24-28 si parla degli uccelli del cielo che non seminano né mietono e dei gigli del campo che non lavorano e non filano, ma che Salomone non ha superato nemmeno nel massimo splendore della sua gloria. Dio si prende cura del singolo, non solo dell'insieme, come un padre, come una madre che ama tutti i figli e ciascuno in modo speciale. Nella Scrittura ciò si esprime in tre modi. 1. Dio è il pastore, come nel Salmo 22:1, ove si dice che proprio perché è il nostro pastore non manchiamo di nulla. Cristo stesso dice di essere il buon pastore che dà la vita per le pecore. Giovanni 10:1-21. e che di 100 pecore è interessato a tutte e 100. Luca 15,4. 2. La vita di Cristo mostra che egli fa suoi i problemi degli uomini, si fa solidale con loro, prova compassione e vuole salvare ciascuno, raccogliendo tutti i suoi figli come una gallina raccoglie i pulcini sotto le sue ali. Matteo 23,37. È un'immagine che allude alla croce, le cui braccia si aprono come ali. 3. Infine, il Cristo provvede alle necessità di quegli uomini concreti che l'hanno seguito, i discepoli, moltiplicando i pani e i pesci, prefigurazione eucaristica, calmando la tempesta e con innumerevoli altri interventi. La provvidenza divina viene così identificata con l'assistenza e la presenza di Cristo. Questo piano eterno che Dio porta avanti nella creazione attraverso la provvidenza è spesso chiamato predestinazione in Cristo, quell'essere stati scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati al suo cospetto nell'amore, nell'elezione ad essere figli adottivi per opera di Gesù Cristo. Efesini 1:3-6. Ciò permette di pensare la fedeltà nella nostra risposta a Dio in connessione alla creazione. È Dio che garantisce la possibilità che la propria vocazione possa essere vissuta grazie alla sua continua presenza, capace di trasformare qualsiasi situazione. Si può correre il rischio di pensare che la provvidenza di Dio sia totalmente inintellegibile. Ciò non accade se si assumono le corrette chiavi di lettura cristologica ed ecclesiologica. L'affermazione della provvidenza equivale a dire che Dio è vicino. Per questo è nell'incarnazione che si rivela il valore della creazione e il senso della provvidenza. La Chiesa aiuta a segnalare agli uomini le tracce della divina provvidenza, che non è né evidente né assurda, bensì divina, quindi superiore alle capacità di comprensione umane. La Chiesa, nella quale si dà ed è assicurata la vicinanza dell'autore stesso della creazione e della provvidenza, può aiutare a scorgere il senso continuando a ricordare in ogni tempo all'uomo che tale senso è la sua filiazione divina. Punto di riferimento della Chiesa in questa funzione di interpretazione è la Scrittura nel suo insieme, non solo dove si parla della provvidenza direttamente, ma nel suo senso profondo, cioè in Cristo. Infatti, solo a partire dal mistero della croce diventano chiari quei momenti della storia della salvezza in cui il popolo sembra abbandonato da Dio. Oggi viviamo in un mondo che è disperato perché ha perso il senso della provvidenza, il senso del Dio vicino. Nella ricerca affannosa della libertà di scelta si è piombati nella schiavitù più assoluta, nella prigione peggiore. Senza il Padre, il mondo appare privo di senso. Ma Dio non si è ritirato. Una comprensione filiale dell'autonomia del creato è oggi quanto mai urgente. Infatti, come ha insegnato Giovanni Paolo II, ebbene, secondo la fede cattolica, è proprio della trascendente sapienza del Creatore far sì che Dio sia presente nel mondo come provvidenza e contemporaneamente che il mondo creato possieda quell'autonomia di cui parla il Concilio Vaticano II. Da una parte, infatti, Dio, mantenendo in esistenza tutte le cose, fa che siano quello che sono. È dalla loro stessa condizione di creature che le cose ricevono la loro propria consistenza, verità, bontà, le loro leggi proprie e il loro ordine. Dall'altra, proprio per il modo in cui Dio regge il mondo, questo viene a trovarsi in una situazione di vera autonomia, che è conforme al volere del Creatore. Audium et Spes 36. La provvidenza divina si esprime proprio in siffatta autonomia delle cose create, nella quale si manifesta sia la potenza che la dolcezza proprie di Dio. 21 maggio 1986. Non si può confondere la dolcezza di Dio, che rispetta la libertà dei suoi figli, con una forma di debolezza o di lontananza. Il Creatore, infatti, è tenero e forte, onnipotente e delicato nello stesso tempo. La ricerca della santità in mezzo al mondo si fonda su questa delicatezza divina, che non è altro che espressione della paternità del Creatore e della fiducia nei suoi figli. La vocazione alla santità di ogni battezzato è una chiamata a partecipare attivamente a questa stessa dolcezza, poiché la provvidenza interpella l'uomo invitandolo come collaboratore, secondo le parole ancora di Giovanni Paolo II. Partecipando come soggetto razionale e libero, ma pur sempre come creatura al dominio del creatore sul mondo, l'uomo diventa in un certo senso provvidenza per se stesso, secondo la bella espressione di San Tommaso. Per la stessa ragione, però, grava su di lui, sin dall'inizio, una particolare responsabilità sia davanti a Dio che davanti alle creature, e in particolare davanti agli altri uomini. 21 maggio 1986. Quanto detto permette di riconoscere la dimensione eucaristica della creazione. La conservazione nell'essere assicura che Dio si ricorda sempre dell'uomo, così come ha chiesto all'uomo di ricordarsi di lui, di attualizzare quel sacrificio che è il senso della storia, compiendolo in memoria di lui. Allora diventa possibile vedere la realtà come è, scorgendo ovunque, come in trasparenza, il dono di Dio, scoprendo che il mondo è impregnato del suo amore.